24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Paola Nania all'appuntamento con 24 ore in Europa. Occhi puntati sull'Italia alle prese con l'approvazione della manovra correttiva. Piazza Affari chiude negativa, penalizzata dall'asta dei BTP con rendimenti in forte crescita. Mentre Fitch declassa 5 banche greche ed Europa ed istituzioni internazionali rassicurano sul programma di risanamento dell'Irlanda. Parleremo anche di 'Ndrangheta con una maxi operazione che dalla Calabria guarda a Olanda, Stati Uniti e Spagna. Infine il Tour de France e il cinema. E iniziamo, come dicevamo, dalla manovra correttiva. Passa in tempi record la fiducia al Senato con 161 voti favorevoli, 135 contrari e 3 astenuti. Ora il provvedimento approda alla Camera per un percorso sprint che dovrebbe portare oggi all'ok definitivo. Prima del via libera, il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, è tornato a difendere l'azione del governo nell'aula di Palazzo Madama. È così che ora siamo arrivati insieme al dilemma e al dramma dell'euro e dell'Europa. O si va avanti o si va a fondo. La soluzione o è politica o non è, o è comune europea o non è. Senza illusioni di salvezza per nessuno. Come sul Titanic non si salvano neppure i passeggeri di prima classe. Il bilancio pubblico lo si fa tutto per legge. Il PIL non si fa solo per legge. Servono certo decreti come questi e come altri. E si può fare di più. Sentiremo tutti su tutto. Ma non si può dire che dal lato dello sviluppo non è stato fatto niente finora. Ciò che serve ora è un duro, responsabile lavoro comune, nel Paese, per il Paese. Ma torniamo al bilancio pubblico. La manovra di finanza pubblica è esatta e corretta ed allineata sull'asse del tempo esattamente come concordato in Europa. Senza il pareggio di bilancio, il debito pubblico, un mostro che viene dal nostro passato, divorerebbe il futuro nostro e dei nostri figli. Ma vediamo quali siano i contenuti della manovra. Colpiranno tutti, famiglie comprese, i tagli lineari dei bonus fiscali, la maggiore novità introdotta nella manovra nel passaggio al Senato. Le riduzioni del 5% per il 2013 e del 20% dal 2014 riguarderanno tutte le 483 agevolazioni fiscali oggi in vigore, comprese quelle per figli a carico, spese per la sanità, redditi da lavoro dipendente, istruzione, ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico. Già da lunedì o martedì entrerà poi in vigore il ticket sanitario da 10 euro su visite specialistiche e analisi mediche. Sul fronte delle pensioni ci sarà anche un contributo di solidarietà del 5% per quelle superiori ai 90.000 euro. Previsti anche interventi in materia di privatizzazioni, liberalizzazioni delle professioni e poi la rimodulazione dell'imposta di bollo sui dossier titoli e del patto di stabilità interno dei comuni, confermata la stretta su bonus e stock option per dirigenti e collaboratori di imprese familiari, introdotta anche una tassazione agevolata per le imprese aperte da chi ha meno di 35 anni. Sul taglio dei costi della politica, infine, viene solo previsto che le retribuzioni siano in linea con la media di quelle dei 6 principali paesi europei. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questo dunque è il fronte politico. Sul fronte dei mercati, l'approvazione in Senato non ha avuto impatti significativi sulla seduta di Piazza Affari, che è stata invece influenzata in negativo dai risultati dell'asta dei BTP con rendimenti in forte rialzo. Facciamo il punto nel servizio. Le borse europee chiudono negative, complice l'allarme sul debito USA da parte di Moody's e l'ennesima impennata in asta dei rendimenti sui titoli di Stato italiani. A Piazza Affari ieri, depressa dai bancari, domani infatti è prevista la pubblicazione degli stress test, il FTSE MIB ha chiuso a meno 1,07% e l'All Share a meno 1,05%. Parigi lascia sul terreno l'1,1%, Francoforte lo 0,7% e Londra l'1%. Tra le blue chip di Piazza Affari si sgonfia a Parmalat dopo l'OPA, meno 5,2%. Basti pensare che l'offerta di Lactalis, conclusa con successo venerdì scorso, valorizzava il gruppo di Collecchio 2,6 euro per azione e ieri il titolo ha chiuso a 2,2 euro. Giù anche Mediolanum, meno 3,2%, sui timori di accertamenti fiscali fino a 230 milioni di euro. Risale invece Luxottica, più 0,9%, grazie al buy, cioè all'indicazione a comprare il titolo emesso dalla casa d'affari Affari Svizzera UBS. Ci Condina da Radio Corp e Radio 24 il Sole 24 Ore. Intanto Fitch ha abbassato il rating di 5 banche greche dopo aver declassato il debito sovrano di Atene a livello spazzatura. Sul fronte irlandese, invece, dopo il declassamento di Moody's, arrivano le valutazioni rassicuranti dalle istituzioni europee e internazionali, secondo cui il programma di risanamento avviato dal paese resta in carreggiata e ben finanziato. Parliamo di cronaca, maxi operazione contro l'Andrangheta ed il narcotraffico internazionale tra Italia, Stati Uniti, Spagna e Olanda. Decine di persone sono state arrestate dai carabinieri. Daniele Biacchessi ha intervistato il procuratore di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone. Che l'Andrangheta ha un ruolo privilegiato di interlocutore dei grandi fornitori sudamericani. Dopodiché questo comporta avere rapporti con i mercati di riferimento. L'Olanda e la Spagna sono sia mercati di spaccio, sia soprattutto mercati di transiti con i grandi porti di Rotterdam, di Algeciras e delle coste spagnole. Ovviamente gli Stati Uniti sono sia l'una cosa che l'altra, però devo dire che accanto alla collaborazione fra molte virgolette delle organizzazioni criminali c'è la collaborazione senza virgolette delle autorità dei vari stati. E ora il ciclismo con il Tour de France. È il giorno dei francesi, ma anche degli italiani, è il giorno di Thomas Leclerc, è il giorno della presa della Bastiglia, si tiene ben stretta anche la sua maglia gialla. È il giorno di Samuel Sanchez, campione olimpico di Pechino, che si porta a casa la prima tappa pirenaica, quella che oggi si è conclusa a Luzern-Biden. È il giorno degli italiani, grazie a Ivan Basso, che chiude al quarto posto a soli 30 secondi dal vincitore in compagnia di Cadel Evans e Andy Schleck. Bravo anche Damiano Cunego, settimo a 35 secondi. Leggera crisi nel finale per Alberto Contador, che chiude a 43 secondi da Sanchez. Così la piccola Italia sui Pirenei si scopre grande. Certo, il cammino è ancora lungo, il Tour, quello vero, è cominciato solo oggi, ma abbiamo più di un motivo, o perlomeno due, per sperare. Basso e Cunego, che questa sera sono rispettivamente quinto e sesto nella generale, a 3.16 e a 3.22 da Vauclair. È chiaro che stando così le cose, il grande favorito resta l'australiano Cadel Evans, forte in salita e forte a cronometro. È chiaro che chi sogna il Tour deve fare fuori definitivamente Contador. Pieragusso Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Luzza Ardideni. Adesso le Olimpiadi 2020. La candidatura di Roma per i Giochi Olimpici estivi 2020 è molto forte perché fatta da persone che conoscono lo sport e che amano lo sport. Questa è la valutazione del presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Jacques Rogge. Ieri dal Consiglio Comunale Capitolino il via libera ufficiale alla candidatura italiana. Nel frattempo anche Madrid ha confermato che sarà in corsa per i Giochi estivi 2020. Esce nei cinema italiani Balkan Bazaar, coproduzione italo-albanese. È una storia che mette in luce uno strano legame tra la Chiesa ortodossa e la politica, raccontando in una chiave comica e surreale le vicende degli ultimi anni relative a un presunto cimitero greco in un villaggio albanese. La presentazione del film ha provocato subito polemiche. Il regista, l'albanese Edmond Budina, al microfono di Marta Cagnola. La prima cosa, cioè la contestazione da parte dei greci è stata da qualche giornalino nazionalista greco e poi un'associazione della minoranza greca in Albania e poi della Chiesa ortodossa albanese al capo della quale c'è proprio un greco. Io nel film non è che ce l'ho né con i greci né con gli albanesi, io prendo in giro sia i greci che gli albanesi. Certo, dicendo, scoprendo questo fatto che sono degli albanesi che prendono i pensioni dalla Grecia quando non hanno lavorato neanche un giorno lì e poi vediamo nei TV questa crisi che sta percorrendo la Grecia e in Albania si costruiscono i cimiteri monumentali con i loro soldi, si pagano delle pensioni con i loro soldi, allora certo a qualcuno non gli fa bene questo fatto. In chiusura, grandissimo successo al botteghino per Harry Potter e i Doni della Morte, parte 2, l'ultimo film della serie. Mercoledì, giorno di debutto in sala, ha totalizzato 3.350.000 euro, il più grande incasso della storia in Italia. In molti cinema i fan sono stati in fila per ore per poter accedere alle prime proiezioni. Ed era questa la nostra ultima notizia, grazie in regia a Mauro De Angeli, un saluto da Paola Nania. 24 ore in Europa. In collaborazione con Euronet.